Ti ricordi la cuckoo? Il bus della cuckoo? Dicevano che c'era una strega nel bosco che viveva in questa specie di caverna, che effettivamente c'è questo buco, questa piccola caverna sotto la strada che va in piazza. Probabilmente non era una strega, ma era una signora che andava a prendere erbe per fare gli infusi. Era una persona chiaramente un po' strana. Leggende ticinesi è un'opera radiofonica che esplora lo stato delle leggende e del meraviglioso nelle regioni rurali del Ticino. Le leggende possono sembrare innocenti, ma contengono un vero e proprio potere di manipolazione. Scopriamo l'uso politico delle leggende a fini nazionalistici esplorando le leggende del Mendrisiotto, una regione dalla storia turbolenta a causa della sua vicinanza all'Italia. Ormai qui era un posto proprio isolato, qui non c'era niente una volta. Andiamo su nel posto lì che dicono che c'è l'energia lì, vediamo com'è. Siamo arrivati dentro un fondo qui, il posto strategico. Il Mendrisiotto sembra essere una regione del Ticino carica di una particolare energia. Questa qui sarebbe la cara di chi? I chi sarebbero i cani, in dialetto. La strada dei cani sarebbe. Non so se una volta cosa è successo con i cani. La leggenda più famosa della regione narra di un fervente sostenitore delle vecchie fazioni, noto come Conte Cane, che prese dimora in una grotta sulle montagne sopra Caneggio. Chiamo Gilberto Bossi, scrittore specializzato nel Mendrisiotto, che mi ha detto di aver fatto una scoperta sorprendente sulla leggenda del Conte Cane. Una figlia del Conte Cane si era fidanzata con un giovane. Il conte non approvava questa relazione e pregava continuamente la figlia di rompere questo fidanzamento. Ma Antonia, la figlia, non ne voleva sapere. Il conte, arrabbiatissimo, decise un bel giorno di castigarla. La condusse poi in una caverna posta sotto la frazione di Campora. Una notte d'estate imperversò un violento temporale. Il conte, angosciato, pensava alla figlia e quando spuntò l'alba mandò i servi da Antonia. La giovane non c'era più. Quattro anni fa io ho fatto una scoperta che quell'Antonia lì non è un'Antonia ma un Antonio. La leggenda sarebbe tutta da riscrivere. C'è un fatto storico che opponeva le antiche fazioni dei Rusca e dei Bosia di Mendrisio. Dalla notte di Natale del 1990, uno di questi si era innamorato di una ragazza e lo nascosero in una grotta, questo Antonio. Il fatto è che l'Antonia è realmente vissuto, l'Antonia è una leggenda. Se è vero che la storia ispira la leggenda, è vero anche il contrario. La leggenda, per quanto infondata possa essere, può avere un'influenza sulla storia. Le leggende sono utilizzate per molti, molti scopi e uno di questi è anche quello di giustificare magari il possesso, no, di un certo territorio, affermare così anche una certa identità di un popolo. Marc Bertogliato, storico e curatore del Museo della Valle di Muggio. Qui nella Valle di Muggio penso al tema dei confini, no, molto importante, e quindi anche le sventure che toccavano le persone che spostavano i termini, queste pietre di confine. Anche quelle sono delle leggende, no? Però appunto servono, hanno sempre uno scopo molto utilitaristico, no? Quello di giustificare una certa appropriazione, forma di appropriazione del territorio, un certo modo di agire, no? Quando la leggenda vuole essere un insegnamento, o vuole essere anche un modo per ricordare il passato o spiegare l'inspiegabile, che la cosa è molto positiva. Quando invece vuole essere un elemento che vuole dividere e vuole così creare così dei conflitti, ecco, che diciamo lo strumento può essere usato bene o può essere usato male. La leggenda è anche uno strumento importante, no? La seconda metà del XVIII secolo ha visto la nascita degli stati nazionali e con essi l'invenzione della narrazione nazionale. Leggende, miti e racconti furono utilizzati dalle nazioni. L'origine indeterminata delle leggende è lo strumento perfetto per creare una narrativa essenzialista dei popoli, che può unire ma anche a dividere. Siamo all'interno di una cultura che è la medesima. Dopo, chiaramente, all'interno di due stati nazionali, e quindi negli ultimi 500 anni si sono formati come due binari paralleli che ogni tanto si incrociavano e mantenevano questi contatti, ma diciamo è sorta questa linea di frontiera che mai nessuno veramente della popolazione locale ha cercato, e si è continuato attraverso il contrabbando, attraverso i commerci, a oltrepassarla senza troppi problemi. Gli antropologi dicono che l'identità non esiste, no? C'è l'alterità, no? Per affermare l'alterità, il fatto di essere diversi, no, dagli altri, si crea un'identità. Quindi è una costruzione molto, molto teorica, no? Non c'è un elemento fisico e biologico che ci identifica, no? Allora si cercano gli elementi invece che ci differenziano per barricarci nella nostra realtà. Si dice che chi racconta bene le storie governa il mondo. Così la finzione ha la capacità di fecondare la realtà. Se fai credere all'inconscio una cosa che è immaginaria, poi l'inconscio la crede come se è vera. È anche su questo che si creano le fake news. Gianni De Lorenzi, ex insegnante e grande conoscitore della storia del Matiereux, il leggendario contrabbandiere del Mendrisiotto. Devi saper costruire un personaggio che colpisca le sensibilità, però anche un influencer gioca su queste cose, no? Lui gioca anche lui sull'immaginazione, perché quando tu diventi un leader la gente ti crede, no? Perché tu hai creato tutto il mondo, a Mendrisio ci sono i magazzini pieni, venite dietro me che troviamo il grano. La gente viene perché crede a quello che tu hai creato. Il Matiereux, lui non li aveva mai visti i magazzini pieni, perché i magazzini non erano pieni. Fin dalla notte dei tempi, le storie immaginarie hanno unito le persone nel bene e nel male. Diverse leggende del Mendrisiotto descrivono le terribili punizioni inflitte alle donne accusate di stregoneria. Ma cosa si può fare con questo passato molto disturbante? È importante, secondo me, non chiudere gli occhi, non cancellare il passato, perché, che ci piaccia o no, il passato fa parte della nostra esistenza. Andrea Jacques Descombes racconta storie. È giusto che questa pere scompaia? Beh, ci sono due possibilità per vivere con questa eredità. O la facciamo scomparire, oppure cerchiamo di capire per quale motivo veniva vista così la donna. E poi cerchiamo anche degli esempi positivi. E si possono trovare. Però come antropologo io devo fare i conti con questa realtà sociale, sapere che per i miei valori è sbagliata, però non posso cancellarla e non posso neanche nasconderla. Però se vogliamo che determinate cose non accadano più, dobbiamo avere uno sguardo sul passato e capire questo passato per non ripetere gli stessi errori. Se noi cancelliamo un errore, automaticamente lo riprendiamo. Ok. Lei hai raccontato un po' la tua storia a questi uomini? Lei è iraniana. Ma no, storia non chiedono favole. Io vengo da un mondo reale, non è favole. I ricordi degli anziani del Mendrisiotto, siano essi originari o meno di questa regione di confine con l'Italia, sembrano essere intrisi di ricordi di guerra. È ancora possibile sognare in mezzo all'orrore? Non me le ricordo. Non te le ricordo. Io ricordo ancora, per annunciare la guerra, hanno suonato la campana, è venuto il camion della birra, ha preso tutti gli uomini di Sannio che erano militari, sono andati a Bellinzona dove li hanno vestiti tutti da militare e hanno ricevuto l'arma. L'impressione che ho ancora in testa è proprio di essere lì e aspettare che ogni tanto pum. Poi c'è stata una cosa, che a Chiasso c'è stata la divisione. C'era la scuola normale e la scuola dove andavano i ragazzi dei fascisti. Un partigiano, portami via. Un bella ciao, ciao, ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sobbellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Sebbene le leggende possano essere sfruttate a fini ideologici, hanno la capacità intrinseca di proporre visioni alternative della realtà. Partiamo alla scoperta delle leggende della Val di Blennio, una regione dove le leggende si fondono ancora con la realtà. Crush! Sta Croce che dicevano che erano parenti del mio papà. Abitavano sulla terra. C'era un buco dove entravano. Una grotta. Una grotta propria. Che adesso non si riesce più a vedere perché è diventato tutto imboscato. Ma una volta entravano proprio dentro. E c'era sta grotta dei Croce. Dicevano che erano streghe. Sì. Non so che sono c'erano delle. Ma non so, perché sicuro erano un po' particolari come personaggi, ma no, noi non li abbiamo vissuti, quei tempi lì erano nel 1800. Ovunque andiamo, gli abitanti della Val di Blennio ci raccontano dei Crush, e ad ascoltarli ci sono infinite versioni su chi siano questi misteriosi personaggi. Nel Sopraceneri e soprattutto in Val di Blennio ci sono moltissime leggende su dei personaggi che si chiamano Croesh. Renato Giovannoli, semiologo ticinese. Allora, sono abbastanza indefinibili perché hanno caratteristiche diverse a seconda delle leggende. È il termine proprio Croesh probabilmente che ha assunto poi diversi significati. Per esempio la strega in Val di Blennio è la Croesha. Però in certe leggende i Croesh somigliano molto ai folletti, in altre leggende ancora agli uomini selvaggi o ai pagani. E un'ipotesi che si potrebbe fare è che questi Croesh fossero in origine, ma non mi sbilancio a far date o a parlare di un'epoca precisa, fossero abitanti delle montagne di una civiltà precedente, forse residui di civiltà celtica, che all'epoca dell'avanzata del cristianesimo sono stati indicati appunto come uomini selvaggi, come pagani, e che poi nelle leggende sono diventati esseri fatati, e infine il termine è passato per definire le streghe. Questo Queste sono state terre celtiche a lungo, perché la romanizzazione e poi la cristianizzazione del territorio, che appunto negli ultimi secoli dell'impero è stata, coincideva insomma cristianizzazione e romanizzazione, è stata abbastanza lenta nelle valli, nelle montagne. Quindi è possibile che ci siano state sopravvivenze di appunto tribù di origine celtica e anche di mitologie più antiche. C'è stato per esempio l'ultimo caso qui in Valle di Blegno, non so se era un disertore o qualcosa. Giovanni Canepa, ex segretario comunale di Olivone. Non si sapeva bene nemmeno di cosa viveva, però viveva anche quello in una grotta lì, in una valle quasi inaccessibile. E quello lì è morto verso il 1905, faceva ceste così. Vallate del mio bel Ticino, non puoi scordare la Valle del Sole. In essa vivevano belle figliole, l'innamorato. Incontriamo una famiglia che gestisce un ristorante dove la gente del posto ama riunirsi. Non c'è mai sentita un diavolo che cade dal cielo, lascia un buco gigante e poi cade dentro in un posto e si richiude il buco. Un po' strano. Però certe volte non capisci mai se è vero o no, se magari... Perché poi le leggende, metà è vero e metà no. Dicevano che il prete faceva... Qui dicevano la fisica, dopo sono via... Era capace a trasformare, non lo so, il cane in qualcos'altro e ti faceva vedere qualcosa di diverso dalla realtà. Oppure dicevano che trasformava una persona in un cane o in un maiale o in qualcosa e la gente ci credeva un po', ecco. Quella è un po' una leggenda, né mamma? Gli facevano credere e loro donavano alla parrocchia. Normale, la parrocchia erano ricchi, E poi adesso come adesso non ci sono più quelle... Qui da noi si dice fafirugna ed è trovarsi in una casa, raccontarsi, questo non esiste più. Mentre un tempo le storie e le leggende venivano raccontate attorno al fuoco, oggi assistiamo a un'esplosione di storie attraverso i social network, i videogiochi e gli universi paralleli. Ma che fine hanno fatto il diavolo, le fate e i folletti? Il meraviglioso della tradizione direi che sta scomparendo. Per esempio, nelle leggende della raccolta Il Meraviglioso, il diavolo appare un sacco di volte. Adesso direi che non si è messo in pensione. Franco Zambelloni, filosofo. La sovrabbondanza dell'immagine di oggi ha ridotto di molto lo spazio della fantasia. Cioè la fantasia non è che sia scomparsa, ma è circoscritta dagli spazi definiti dalla pubblicità. La mentalità magica dell'infanzia perdura e poi rimane nel sottofondo della mente. Questo ragazzo vive già nel metaverso. Si chiama X-Sense, la tecnologia usata dall'alter ego di questo ragazzo. Il metaverso è un concetto complesso. Tutto ciò che sappiamo è che esiste e non esiste allo stesso tempo. Incuriosita da questi universi paralleli, sono andata a trovare Paolo, che lavora nel negozio Amazing Games ed è un appassionato di videogiochi di auto. L'auto mi dà quel senso di libertà che non riesco a trovare in altre cose. Dal mio punto di vista, i videogiochi creano un mondo che poi alla fine è un po' quello che uno vorrebbe, no? Un mondo fatto di sogni, dove magari alcune cose prendono forma che magari, non so, nella vita di tutti i giorni magari non sono possibili. Oggi comunque abbiamo un realismo che porta, diciamo, quasi a immergersi in un parallelo che delle volte è veramente difficile, cioè abbiamo quasi situazioni che sono paragonabili alla realtà. Mentre un tempo il reale era vero, adesso il reale tende sempre di più ad essere artificiale, fino appunto alla realtà virtuale in cui si propone all'utente un mondo che non esiste materialmente perché diventa soltanto percettivo. Lo vedo dentro degli occhiali, sembra tutto vero, ma in realtà quel che vedo non c'è. Un mondo simulato è semplicemente creato dall'uomo, quindi non può rinviare a una realtà superiore, ma rinviare soltanto alle capacità tecniche sempre più potenti dell'uomo. Quando un uomo del Medioevo aveva una visione, si sentiva subito in rapporto con un altro mondo. Così un serpente non è semplicemente un serpente, ma diventa simbolo di una potenza cosmica. E sicuramente il fantastico, in tutte le sue forme, risponde a questo bisogno umano. La dimensione poetica è fondamentale perché quella che ci consente di raccontare la storia andando al di là della storia. Mauro Geraci, canta storie. Il poeta dà voce ai possibili sogni, dà voce alle utopie, che utopie affatto non sono, anzi sono progetti di un mondo migliore, quindi ha una capacità sperimentale. Oggi si è diventati consumatori di tutto quello che ci viene offerto, no? Abbiamo perso molto quella che è la capacità così della riflessione, della fantasia. Quindi quello che è importante è fare un po' il vuoto, staccarsi da tutto questo e cercare di ritrovare quello che è così la tranquillità e il silenzio. Ci sono ad esempio dei luoghi veramente misteriosi. C'è solamente magari il bosco, una sorgente, l'acqua. Lì ci si sente quasi come nudi e liberati. Si aprono altre prospettive. Cambiare la propria realtà non significa vivere una vita parallela, né tantomeno rifugiarsi nel mondo della fantasia, al fine di fuggire da una vita che non ci soddisfa. Se è vero che il consumismo esasperato di intrattenimento visivo, tipico della società odierna, può indebolire l'immaginazione, d'altra parte sorgono ovunque movimenti alternativi che offrono la possibilità di esplorare mondi paralleli dove l'immaginazione predomina. Per esempio attraverso l'ayahuasca, la realtà virtuale o i cerchi sciamanici di tamburi, come quelli praticati da Ginny Brand, una sciamana trasferitasi in Ticino. Attenzione qui alla testa, perché questo è un rustico dei cuffi, perché è tutto basso, tutto piccolo, tutto... Allora, questo è un disegno che avevo fatto ma tanti anni indietro, quando ho iniziato a insegnare telepatia. Le stelle normalmente di giorno col sole non li vedi, E io ho voluto metterli che si vedono, perché quello che succede di là comunque è visibile anche qua, anche se in verità è invisibile. La telepatia è una comunicazione con la mente. Ogni parola che noi pronunciamo produce un'immagine, mentre il viaggio sciamanico è sempre comunque anche un ricevere, captare immagini. Però non è, secondo me, non è una telepatia, è un comunicare con delle creature che sono essenze. E a volte ci sono dei messaggi che tu con la tua testa, con il tuo sapere, non capisci, perché non c'è nulla da capire, perché sono messaggi per l'anima e l'anima capisce sempre. Sciamanicamente parlando si dice che il mondo è diviso in tre livelli: il mondo di sotto, o mondo inferiore, dove vivono gli animali guida. C'è il mondo di mezzo, dove ci siamo noi, dove per esempio ci sono fatte folletti, i guardiani dei luoghi e altre creature. E poi c'è il mondo di sopra, dove ci sono i maestri spirituali. Poi loro mettono un vestito, una forma anche per noi, perché se i vostri animali guida vi dicono: ma noi siamo solo essenza, noi umani abbiamo bisogno di una forma, di un qualcosa di concreto, di poterci immaginare, ma loro la forma la prendono per noi. Questo viaggio attraverso il Ticino e le sue leggende mi ha stimolato molte domande sul rapporto fra razionalità e immaginazione. Il reincanto sta forse nel conciliare queste due polarità? Proprio quando pensavo che fossimo arrivati alla fine del viaggio, l'ultimo pasto in un grottino in cima a un monte della Val di Blegno ci ha fatto ripiombare in un mondo popolato da personaggi leggendari. Quando lavoravo alla CRAI mi dicevano che c'erano delle leggende anche su delle streghe. Io credo solo che ho preso due fulmini e sono un po' centrato. Fai 4 metri di volo e buonanotte. Non è che senti tanto, senti sciac come la frusta. Narrazione, regia e montaggio Zoé Rossion. Un progetto ideato da Jonathan Frigeri, con la partecipazione di Camilla Baumann. Musica di Giordano Roche.